Visionari, l'appuntamento con il cinema su Radio Onda Rossa. Per la scaletta, le informazioni le trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sia su Facebook sempre all'indirizzo Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Quest'oggi si parlerà di film e documentari in uscita in sala, ma anche in programmazione TV, di festival e anche di progetti di film. In collegamento con Ludovica Tortora De Falco, regista del documentario Antiracket. Ludovica, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, buongiorno. Allora, Antiracket, stato programmato in TV, sicuramente poi ha avuto o avrà un percorso festivaliero, forse anche una distribuzione, una forma di distribuzione, ma comunque partiamo dalla tematica. Cosa ci racconta Antiracket, Ludovica? Dunque, la storia del movimento Antiracket, quindi, che nasce nel 1990 in provincia di Messina, in un piccolo paesino che si chiama Capo d'Orlando, dove abbastanza spontaneamente un gruppo di commercianti del paesino decidono di ribellarsi a questo ricatto mafioso che veniva dall'esterno, non veniva dall'interno del paese, e quindi creano una prima forma inedita in Italia di contrasto collettivo al sistema del racket, quindi un sistema di difesa, di resistenza contro un sistema di attacco. E proprio per questo aspetto di collettività e di solidarietà è un funzionamento che ha poi potuto essere diffuso in altri paesi d'Italia, del sud Italia, fino a diventare appunto una rete di 60 associazioni antiracket in Italia, più di 60. Senti, visto che hai... allora, intanto ti chiedo come era nato il progetto. Il progetto è nato perché ho avuto modo di frequentare molto la Sicilia attraverso un primo lavoro che avevo fatto lì su Vincenzo Consolo, e attraverso questo contatto di una Sicilia che per Vincenzo Consolo era di resistenza attraverso la letteratura, poi ho avuto modo di conoscere Tano Grasso, che è il leader del movimento Antiracket, e attraverso di lui tutto il, diciamo, le piccole associazioni locali e poi anche quelle fuori dalla Sicilia, quindi Calabria, Campania, eccetera. E ho pensato che, siccome è una storia di cui si parla poco in realtà, mi sembrava importante raccontarla, soprattutto perché è una storia di persone e non di eroi, quindi è una storia che permette di andare a vedere come le persone lavorano giorno per giorno nel quotidiano senza fare spettacolo, no? E quindi hanno in realtà un'efficacia sicuramente molto importante da un punto di vista dei risultati, ma di cui si parla poco perché non fa spettacolo. E perché appunto non si vivono come degli eroi, ma semplicemente come delle persone che giorno per giorno fanno resistenza. Ecco, ti stavo per chiedere prima, visto che ti sei interessata al fenomeno, volevo sapere che dimensioni ha, che fetta di popolazione riguarda questa del racket. Diciamo che se si va a guardare molto da vicino, ci sono dei paesi in cui tutti pagano il pizzo in Sicilia. Probabilmente a Palermo ancora oggi l'80% dei commercianti lo pagano. Quindi non è, diciamo che il movimento anti-racket non è un movimento di quantità per ora, ma è senz'altro un movimento di qualità, nel senso che una persona che denuncia non torna più indietro, no? E non ci saranno mai 100 commercianti che da un giorno all'altro denunciano, ma ce ne sarà sempre uno più uno più uno più uno più uno. Senti, tutto questo però nasce dal basso. In maniera tutto completamente questo, autonoma. Sì, nasce dal basso, nasce innanzitutto spontaneamente negli anni 90 dai commercianti che decidono di mettersi insieme, e continua dal basso. Però attenzione, perché si pensa sempre che è senz'altro vero che sono le persone che hanno fatto poi questo movimento, però non potrebbe funzionare questo movimento se non ci fosse una fortissima collaborazione con le forze dell'ordine locali. quindi da un punto di vista di intervento istituzionale sono presenti in loco prefettura, magistratura, eccetera, per cui se è vero che una volontà politica di combattere questo fenomeno non è molto visibile, è anche vero che a livello locale l'intervento istituzionale c'è. Prima ti dicevo della fascia di popolazione colpita, delle cifre, e adesso invece dal punto di vista economico hai delle cifre in proposito? No, devo dire che questo lavoro non sono andata a vedere quali erano i riferimenti proprio statistici, anche perché mi sono, devo dire, interessata più agli aspetti umani di queste storie di resistenza, quindi non ti so dare delle cifre precise di né di quanti sono a livello economico le, però è chiaro che se c'è un'economia che è bloccata non possiamo non parlare di mafia al sud e di racket, questo è sicuro, anche perché il commerciante che paga lo fa per convenienza, quindi significa che è molto diffusa ancora la cosa. Ludovica, il tuo documentario che tipo di diffusione avrà? Dunque, questo è un lavoro che è stato coprodotto con una società francese e con la televisione francese François-Cos, e quindi ha avuto una prima diffusione in Francia. Poi è stato acquistato da Rai Storia, che ne ha fatto una diffusione un paio di settimane fa e che può ancora vedersi adesso in streaming il lavoro. E poi stiamo cercando di fare una versione un po' più lunga, perché comunque queste versioni sono state un po' formattate per le esigenze televisive, invece io vorrei fare una versione un po' più articolata, e quindi speriamo di diffonderla prima di fare una diffusione di questa versione vorremmo farne una seconda versione un po' più lunga e poi distribuirla in un secondo momento. Ci sono dei riferimenti su internet per saperne di più? Del film? Sì. Sì, c'è il sito della società francese che ha prodotto il film, che si chiama Imagine. E poi c'è senz'altro ancora sul sito di Rai Storia, ci sono delle indicazioni ancora lì. Perfetto. E che rimarranno, penso, perché appunto il film si vede in streaming. Bene, Ludovica, io ti ringrazio, a risentirci presto per le prossime novità. Grazie a te, buona giornata, buon lavoro. Ciao Ludovica, ciao. Ciao. Ludovica Tortora De Falco, regista del documentario Anti-Racket. Con noi Stefano Carderi, direttore della seconda edizione del Festival del Cinema Veramente Indipendente, che starà alla Sala Trevi qui a Roma dal 24, quindi da oggi, fino al 27 aprile. Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buonasera, grazie. Seconda edizione, raccontaci un po' quali sono le caratteristiche di questo festival. Beh, le caratteristiche della seconda edizione sono pressoché le stesse della prima edizione, diciamo le caratteristiche distintive del nostro festival sono quelle che è privo di una selezione preliminare per i corti, è poi successivamente privo di una giuria e privo di un vero e proprio, di una vera e propria premiazione. Pertanto, diciamo, tutte le opere che ci vengono inviate fin quando non chiude il bando vengono visionate affinché non ci siano, diciamo, dei contenuti assolutamente improiettabili, dopodiché vengono suddivise per generi e proiettate tutte quante durante i giorni del festival. Quante sono le opere che presenterete in questa edizione? Quest'anno ne presenteremo 90, o anzi per la precisione saranno 89. A differenza dell'anno scorso, quest'anno abbiamo dovuto estrarre a sorte le opere che ci sono arrivate, perché ne erano arrivate più di 160 e quindi ne proietteremo 89 poi di fatto. Senti, perché questa definizione di veramente indipendente? Il veramente voleva essere un po' così ironico, diciamo anche provocatorio, sul fatto che spesso si parla di cinema indipendente, poi questo cinema indipendente poi non sempre risponde a quelle che sono le caratteristiche vere del cinema indipendente. Indipendente, diciamo, per definizione è qualcosa che non è legato alle grandi case di produzione e che non abbia dei budget esagerati. Spesso poi invece per cinema indipendente, soprattutto in Italia, si intende un cinema che, ecco, tutto ciò che non è cinema nettone poi alla fine finisce in quel calderone del cinema indipendente. Senti, che tipo di struttura avete dato? È diviso in piccole sezioni o cosa? Sì, quest'anno, visto che abbiamo ricevuto molte opere, abbiamo raccolto le opere già suddividendole per genere, per cui poi avevamo molti generi ben rappresentati e perciò abbiamo pensato di suddividerle una volta estratte, diciamo, suddividerle per genere. Per cui noi faremo 3 proiezioni al giorno, una alle 17, una alle 19 e una alle 21, di circa un'ora e un quarto l'uno. E durante queste 3 proiezioni diversi generi si alterneranno, da più comuni, diciamo, commedia, drammatico. Abbiamo un bel pezzetto di cinema horror che sarà l'ultimo giorno, il 27, dalle 19, dove sono arrivate delle cose abbastanza carine. Quindi c'è anche cinema di genere. Ecco, proprio a proposito di quest'ultima cosa, il cinema di genere, ci sono dei temi più ricorrenti nei lavori che avete ospitato quest'anno? Ma devo dire, così, pensandoci un attimo a caldo, direi che no, non mi viene in mente qualcosa di particolarmente ricorrente. L'anno scorso c'era stato di più una rappresentazione, oltre che di un certo cinema di genere, soprattutto c'erano arrivati molti horror l'anno scorso, c'erano arrivate anche tantissime opere, diciamo, di stampo sociale, quindi ecco il classico filmetto dove c'è qualcuno che non mette la cintura di sicurezza, poi fa l'incidente. Oppure qualcuno che inciampa per strada e arriva qualcuno ad aiutarlo, insomma. Evidentemente l'anno scorso c'era stato un richiamo diverso per questo tipo di pubblicità progresso quasi. Invece quest'anno devo dire no, c'è arrivato molto più cinema, ecco, diciamo così. Bene, ci dai riferimenti per saperne di più sulla programmazione? Sì, allora, diciamo, tutta la programmazione è presente sul nostro sito, che è www.cbuifestival.com, e poi c'è una pagina Facebook che è appunto sempre Festival del Cinema Veramente Indipendente, e c'è una pagina YouTube che ha lo stesso nome. Diciamo che su tutte e 3 queste pagine si possono trovare informazioni sul festival e la programmazione. Che, come ricordo, come hai già detto tu prima, inizia oggi alle 17, andrà avanti fino al 24 e le proiezioni saranno appunto alle 17, alle 19 e alle 21. Poi mi permetto, scusa, una cosa importante, sì. Che alla fine di ogni proiezione, questa è una caratteristica anche, diciamo, fondamentale del nostro festival, è che alla fine di ogni proiezione poi ci sarà un incontro con gli autori appena proiettati, che si confronteranno fra loro, con il pubblico, con i giornalisti in sala. Quest'anno in sala abbiamo anche dei cosiddetti addetti ai lavori, quindi avremo dei produttori, dei registi, degli attori del cinema invece non più prettamente indipendente. Ci sarà Domenico Procacci. Bene, bene. A questo punto ci salutiamo, un in bocca al lupo e alla prossima. Va bene, grazie, crepi il lupo. Ciao Stefano. Alla prossima. Ciao. Ciao. Questo era Stefano Carderi, direttore della seconda edizione del Festival del Cinema Veramente Indipendente, qui a Roma, alla Sala Trevi, da oggi 24 fino al 27 aprile. In linea con Emanuele Cerman, regista del film In nomine Satan, in uscita in sala oggi giovedì 24 aprile. Emanuele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie di questo invito, sono molto felice di partecipare, grazie. Allora, In nomine Satan, vado un po' al buio perché purtroppo non ho avuto modo di vedere il film. Racconta un po', soprattutto per chi ci ascolta, qualche linea di trama. Allora, il film è ispirato alla nota vicenda, tristemente nota, delle bestie di Satan, che si era consumata a cavallo di metà degli anni 90, fine primo anno del 2000. Io mi sono ispirato a quello che è il primo omicidio efferato, e da lì ho creato un film che analizzasse vari punti di vista senza dare quella presunta verità che è stata portata avanti dai media, non distinguendo nulla tra i ragazzi protagonisti della vicenda, sia nella loro colpevolezza o presunta colpevolezza di alcuni, sia nel caso delle stesse vittime. Quindi ho cercato di fare un film che ponesse dei punti interrogativi e delle domande su uno dei casi più misteriosi e ancora, potremmo dire, non risolti del tutto del nostro paese. Ecco, dicevi una serie di interrogativi. E com'è nata questa spinta a realizzarne un film? Ma il film inizialmente era nato, che doveva essere un progetto che aveva due puntate televisive, che avrebbe dovuto girare Stefano Calvagna. Io all'epoca venni chiamato come attore. Nella vita io ho seguito già il caso da tempo, perché essendo quei ragazzi dei miei coetanei, io rimasi molto impressionato all'epoca e continuai a seguire, vidi parecchi documentari prodotti sia da Rai, da Mediaset che da Sky, nonché lessi un paio di libri e seguì per un periodo il blog dell'avvocato Franceschetti, che oggi è il difensore sia di Sapone che di Paolo Leoni. Quando il progetto è cambiato, è diventato cinematografico, mi è stata data la possibilità di riscriverlo in pochissimo tempo, perché questo è un film veramente indipendente, cioè l'operazione complessiva, compresa l'uscita in sala, è costata 40.000 euro, quindi parliamo veramente di qualcosa che è improponibile nei termini lavorativi canonici. Nonostante questo, il grande sforzo che abbiamo messo nella fase realizzativa, e parlo dal punto di vista della concentrazione, perché il nostro primo impegno era quello di portare rispetto verso comunque il dolore che ancora decine di famiglie stanno provando, perché poi c'è sia il dolore delle famiglie delle vittime, ma sia anche quello dei ragazzi che sono stati dichiarati colpevoli. Quindi immaginiamo questa cosa, una piaga, una ferita ancora aperta, ma ha lasciato tantissimi punti interrogativi, perché probabilmente lo stesso avvocato Franceschetti chiederà a breve la revisione del processo. Ci sono delle prove che in realtà sarebbero delle prove che potrebbero più scagionare che incolpare, ma una su tutte, insomma, la famosa buca dove vennero seppelliti due ragazzi, che non può essere scavata a mano, sia per la profondità sia per il numero enorme di radici e di terreno duro, e quindi non poteva essere scavata se non con una ruspa. Evidentemente c'è qualcosa che non è stato detto, qualcosa che non è stato ancora emerso, la verità è che forse non emergerà mai, ma riportare l'attenzione su un tema come potrebbe essere il tema di Ustica, come potrebbe essere quello del mostro di Firenze, insomma sono tanti i misteri del nostro paese, no? Uno su tutti lo stesso Mattei, quante cose non sono rimaste irrisolte e lasciate lì. Credo che uno dei compiti del cinema, almeno quello che è la mia idea di cinema, con tutta l'umiltà, ma ognuno di noi ha un modo di lavorare in questo mestiere, è quello di fare dei film che aprano un dibattito. Io non ho la pretesa ovviamente di piacere a tutti, ma quello che mi interessa è fare in modo che lo spettatore abbia la possibilità di uscire in sala e di farsi delle domande e non di dimenticare tutto in un istante. Emanuele, a partire dal satanismo, l'idea che mi viene in mente è che tra sette gang, gruppi ristretti di persone che operano più o meno nella segretezza, sono sempre più diffusi, non solo nel nostro paese. Hai ragione, esattamente. Allora, i dati dicono che attualmente gli adepti delle sette sataniche, del culto satanico, sono 600.000 e sono in continuo aumento, quindi questo significa che si può paragonare alla stregua di un vero e proprio culto religioso. Poi all'interno ovviamente del culto satanico ci sono delle differenziazioni da fare, perché soprattutto la principale è il non confondere quello che è lo studio, diciamo, tra virgolette luciferico, con la figura di Satana. Sono due cose completamente distanti. Cioè, io sono un amante degli studi dell'antroposofia, insomma lo stesso Steiner più volte ha anche descritto la vera simbologia legata a Lucifero, che lui è all'avvento poi di Cristo e a quello che sarebbe stato poi un terzo avvento futuro, che lui chiamava rimane. Ecco, quindi quella era luce e conoscenza. Il fatto drammatico delle sette è che adesso, passando dalla società dei contenitori a quella del controllo, e avendo quindi meno sicurezza sociale, no? Perché siamo tutti in una situazione piuttosto pericolosa, chi ne subirà maggiormente le conseguenze, oltre alla mia generazione, sono quelle che stanno venendo a seguito. e quindi non avendo nessun tipo di sicurezza sociale, ti parlo dell'istruzione, la sanità, il lavoro, quindi non più la società dei contenitori, si cercheranno delle vie anche per questo, soprattutto per ignoranza poi, e principalmente per il fatto del crollo di luoghi deputati alla cultura, cioè chiudono i cinema, chiudono i teatri, chiudono le biblioteche e aprono solo centri commerciali, questo produce consuma greva che comunque che ci hanno imposto, porta una debolezza, soltanto gli elementi deboli della società che cosa fanno? Vanno a cercare protezione, visto che non è la società, è lo Stato, quindi sì, a darla, attraverso delle forme deviate, perché sì, poi ecco, diciamo, sì, anche suggestioni. Anche suggestioni, insomma. Bravissimo, è esattamente quello, perché magari compri il libro di esoterismo al supermercato, fai due o tre cose, ti autoesalti, poi magari mescoliamoci in mezzo anche l'abuso di sostanze stupefacenti, quindi si cerca un nuovo tipo di potere, di controllo anche nel piccolo gruppo, che sono delle dinamiche molto molto molto pericolose. Se poi andiamo ad analizzare il satanismo da un punto di vista molto più alto, essendo una vera e propria religione, come ti dicevo, ovviamente è un satanismo nascosto, probabilmente legato alla massoneria, perché anche la massoneria, alcune, diciamo, dei rami della massoneria si prediligono verso il culto del satanismo, ovviamente lì ci sono sacerdoti, intellettuali, studiosi, e ovviamente non sono certo visibili. Senti, un'uscita in sala con distribuzioni dal basso, in quante sale uscirà a partire da oggi? La distribuzione si chiama distribuzione indipendente, ecco, comunque parte dal basso, perché è una piccola distribuzione. Oggi il film esce, uscirà una ventina di cineclub e cinecircoli su tutto il territorio nazionale. A Roma oggi viene fatta una prima al Cinema Adriano, stiamo aspettando la risposta da un multisala, non posso dire qual è, che sta contattando la distribuzione, altrimenti faremo un'altra serata evento al Cinema Barberini, e poi stiamo contattando altre sale per riuscire a coprire, insomma, i capozona più importanti. Comunque il film è visibile in questi circuiti alternativi, ti ho detto, è un film indipendente, sì, la situazione cinema indipendente non è semplice, in più, come sai, trattando di un film che tratta comunque di un mistero, di uno di quei casi che nessuno avrebbe voluto riaprire in qualche modo, anche come dibattito, ovviamente non è certo aiutato, ma certo, purtroppo non credo che io farò mai dei film, diciamo, semplicemente tanto per intrattenere. Senti, oltre al sito internet di distribuzioni dal basso, puoi darci anche altri riferimenti per saperne di più? Allora sì, c'è una pagina sul film Facebook aggiornata quotidianamente che si chiama In nomine Satan Film, e poi distribuzioneindipendente.it, qui ci sono le maggiori informazioni. La pagina del film è costantemente aggiornata tra video, news, interventi, foto, clip, e quindi c'è un po' tutto. E tra l'altro volevo dire che il film fortunatamente ha preso adesso un importante premio in India come miglior montaggio in concorso a New York City International Film Festival, e sarà anche a Madrid, dove ha due nomination sia per la sceneggiatura sia per miglior attore, quindi di questo sono soddisfatto, perché quando si lavora in soltanto 10 giorni, io non avevo neanche le location, addirittura delle volte me le toglievano, ma mi sono veramente voluto affidare all'ispirazione, alla creatività e a voler affrontare insomma con forza il lavoro senza stare a aspettare il momento opportuno per girare, perché se qui continuiamo a aspettare che si sistemano le cose, credo che certo, almeno noi operatori della cultura potremmo anche tutti espatriare con una certa serenità. Senti Emanuele, io ti abbraccio, un in bocca al lupo, resta un attimo in linea. Vedi il lupo, grazie. E un bentornato a Pier Giorgio Curzi, co-regista del documentario Lauro De Bosis, storia del volo antifascista su Roma, che è stato in programmazione oggi su Rai 3 e sarà su Rai Storia domani 25 aprile, giusto Pier Giorgio? Sì, tranne che oggi c'è stata la diretta dal Parlamento e col voto di fiducia, quindi è saltata. Diciamo, la messa in onda di oggi. Quindi c'è domani, perché però è domani, la versione integrale. Domani sì, ecco, io sinceramente poi tenevo di più la versione integrale, che è domani alle 9:15 su Rai Storia. Benissimo. Allora Pier Giorgio, intanto mi è piaciuta subito la storia di Lauro De Bosis e ho messo la sua foto in bianco e nero a bordo dell'aereo, sia sulla newsletter che sul sito della radio. Sì, ho visto, infatti, ho apprezzato molto, grazie. Senti, allora racconta un po' a chi ci ascolta che storia è questa. Ma innanzitutto è una storia che io non conoscevo, ma come molti non conoscono, ma è una storia bellissima, molto avvincente. È la storia di un, come potremmo definirlo oggi, un cane sciolto, cioè di una persona che ha preso un'iniziativa folle, cioè quella di sfidare il regime di Mussolini. Poi premetto, lui era comunque un uomo vicino al regime, simpatizzante nella, diciamo, nella prima ora, ecco, era un danduziano, era un uomo di destra, era un conservatore nel senso crociano, cioè era un liberale di destra, ecco, che aveva visto in un primo momento nel fascismo la possibilità di vedere realizzato, come molti nei primi anni dei 20, i principi risorgimentali, ecco, vedevano nel fascismo una riproposizione dei valori risorgimentali, che poi subito dopo, dal delitto Matteotti in poi, dal 24 in poi, sono stati traditi. Quindi lui in qualche modo si è sentito in qualche modo tradito, diciamo così, per usare un eufemismo, e ha pensato di reagire a tutto questo. È diventato quindi un antagonista, un antifascista, ha maturato quindi questa coscienza politica e ha messo da parte, diciamo, i suoi sogni letterari, perché stiamo parlando comunque di un giovane poeta, un fine intellettuale, e ha messo su un'organizzazione clandestina che paradosso vuole si chiamasse Alleanza Nazionale per la Libertà, che metteva insieme antifascisti di estrazione diversa, cioè erano socialisti, liberali, repubblicani, ma anche monarchici. Poi in tutto questo lui era sempre convintamente monarchico, filo monarchico, ma ovviamente con un'idea diversa di monarchia, pensava più al modello inglese che a quello italiano, e ha iniziato a mandare delle missive, ha iniziato a redigere dei manifesti contro il fascismo, invitando sostanzialmente gli italiani a ritrovarsi intorno alla monarchia, intorno al Vaticano, secondo lui le uniche istituzioni in grado di ristabilire l'ordine costituzionale calpestato. E poi quindi con questa organizzazione clandestina hanno mandato mandavano sostanzialmente con il metodo della catena di Sant'Antonio, scrivevano queste lettere, le imbucavano personalmente e invitavano le persone che le ricevevano a farne altrettante copie, insomma almeno un minimo di 6 copie, di imbucare a loro volta. Diciamo un'iniziativa che ha avuto successo, però in poco tempo la polizia segreta fascista li ha individuati e ha iniziato ad arrestarli. Lui fortunatamente invece si trovava in America in quel periodo, ed era stato l'unico dell'organizzazione clandestina a salvarsi. Quindi però lui al tempo stesso sentiva il peso di non aver condiviso la stessa sorte dei propri compagni e soprattutto della madre, perché anche la madre di Lauro De Bosis aveva partecipato con il ciclostile in casa a redigere questi volantini, anche lei era finita in carcere. Quindi lui sente il peso di non condividere la sorte, vuole fare qualcosa, vuole reagire. Tra l'altro il tribunale speciale arriva presto alla sentenza, i suoi due principali collaboratori, Vinci Guerra e Rendi, vengono condannati a 15 anni di carcere, a 15 anni di carcere duro, durissimo, e questo soltanto per aver imbucato aver fatto circolare delle lettere in cui si invitava gli italiani a recuperare le garanzie costituzionali che erano state abolite. E allora Lauro pensa di fare un gesto eclatante, cioè di mandare, insomma, di far vedere, di far sentire ai suoi compagni di lotta la sua vicinanza, ma al tempo stesso per fare un'azione concreta. Anziché mandare poche lettere come facevano prima, decide di mandarne tantissime con un gesto solo. E come pensa di fare questo? Impara prende lezioni di volo, lui che non sapeva neanche andare in motocicletta, prende lezioni di volo e impara in pochissimo tempo. È una storia che poi questa qui che si concentra tutta nell'arco di un anno, dal 1930 al 1931. e impara in pochi mesi a volare, e con 7 ore e mezzo di volo, adesso qui sintetizzo, ma la storia è molto più avvincente di quanto la sto raccontando io, e si imbarca a Marsiglia con 400.000 volantini, e da Marsiglia, anzi da Cannes, parte diretto su Roma. E è arrivato sul cielo di Roma il 3 ottobre del 1931, sgancia alle 8 di sera questi 400.000 volantini, dove inneggiavano sostanzialmente alla libertà, a recuperare la libertà perduta, invitavano il re a reagire allo stato di cose in cui si ritrovava. Dice, c'è una frase bellissima che dice: state firmando con la penna di Canalberto i decreti di Radetzky. Cioè, come dire, il tema risorgimentale ritornava sempre anche in questi volantini, e quindi c'è questa pioggia di volantini su Roma che nessuno sa, che nessuno ricorda, perché è stato uno dei primi gesti di reazione contro il fascismo. C'è questa, ci sono delle cronache dell'epoca che raccontano che Roma era stata imbiancata, il Quirinale, ma la stessa piazza Venezia, dove aveva sede il Gran Consiglio del Fascismo, ma anche si parla anche del Vaticano, di via della Conciliazione, insomma del Pincio, insomma tutta Roma è stata imbiancata da questi 400.000 volantini. E la storia si fa ancora più avvincente, perché ovviamente il fascismo tenta di reagire a questa violazione del cielo di Roma. E polizia e milizia si affrettano a raccogliere questi volantini, però con scarsi risultati, perché sono tantissimi e molti li hanno presi, li hanno conservati, tutta Roma ne ha parlato, e Balbo cerca di reagire inseguendo questo aereo che prende la via della Corsica sulla strada del ritorno, ma di fatto questo aereo sembra svanito nella notte. L'aereo di Lauro De Bosis di fatto non è stato più trovato, tantomeno il suo corpo, e si è creato quindi il mistero sulla morte, sulla scomparsa di Lauro De Bosis, che tuttora c'è, e che avvicina molto questa figura romantica, risorgimentale, e un po' quella di Saint-Exupéry, insomma, l'autore del Piccolo Principe. Senti, l'ho fatto troppo lunga. No, figurati, Pier Giorgio. Senti, come hai conosciuto questa storia e poi come hai pensato di renderla documentario? Ma questa storia io appunto non la conoscevo, c'è stata ovviamente, devo dire, proposta dalla Rai stessa, che aveva diciamo voglia giustamente di raccontare la storia di un eroe dell'antifascismo che è stato piuttosto dimenticato, e quindi l'hanno affidata alla Road Television di Maurizio Carta, un amico produttore, regista, coautore anche lui del documentario, che mi ha coinvolto in questo progetto. E sai, quando ti coinvolgono in qualcosa che tu non conosci, io penso che sia ancora più stimolante, soprattutto quando trovi dell'affinità con il protagonista. E l'abbiamo raccontata ricorrendo alle ricostruzioni, ricorrendo ai materiali d'archivio, ne abbiamo trovato anche del materiale inedito che riguardava Lauro De Bosis e la sua famiglia, sia presso, insomma, conservata dal nipote Alessandro Cortese De Bosis, ma anche conservata ad Harvard, perché lui ha insegnato anche lingua e letteratura italiana ad Harvard negli anni 20. E poi la cosa più interessante è che lui, la notte prima di partire con il suo aereo in volo su Roma, ha scritto un testamento, un memoriale straordinario, che Pertini ha definito, insomma Presidente Pertini, tutti ce lo ricordiamo, ha definito una delle pagine più belle della resistenza inerme contro il fascismo, e che si chiama questo memoriale Storia della mia morte. È stato anche piuttosto profetico in questo, e sono poche pagine, stiamo parlando di 2 o 3 pagine, ma di una densità profondissima, che io consiglio veramente, indipendentemente dal documentario, di recuperare questo testo, che è di una bellezza e di una è poetico, ma al tempo stesso analitico, è un piccolo pamphlet scritto da un uomo alla vigilia della sua missione, della sua lotta personale contro il fascismo, prima di affrontare questo volo, come ho scritto. E noi ci siamo basati sostanzialmente su questa testimonianza, su questo sulle sue parole. Sì. Noi abbiamo raccontato questa storia ricorrendo alla sua voce narrante, a questo testo che ci ha lasciato. Senti Pier Giorgio, allora in chiusura ti chiedo due cose: se in rete si trova questa sorta di testamento, e poi invece notizie in rete sul tuo documentario per chi vuole avere maggiori informazioni. Guarda, al momento in rete sul documentario non c'è nulla, a parte il palinsesto sul palinsesto di Rai Storia, ecco, appunto domani andrà in onda alle 9:15 di sera, alle 21:15, non so se verrà replicato, però sicuramente si trova qualcosa sul sito di Rai Storia. Per quanto riguarda il piccolo documento che ci ha lasciato Lauro De Bosis, Storia della mia morte, si trova anche in libreria, ma si trova anche facilmente su internet. Basta scrivere Storia della mia morte, Lauro De Bosis, ed è possibile leggere questo contributo insieme a quello di tanti altri che hanno appunto, insieme a quello di Salvemini, di Spadolini, ma lo stesso nipote Alessandro Cortese De Bosis, che hanno appunto commentato queste pagine. Bene, allora un abbraccio e a risentirci presto, Pier Giorgio. Grazie Federico. Ciao. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Pier Giorgio Curzi, co-regista del documentario Lauro De Bosis, Storia del volo antifascista su Roma. Come ci diceva lui, su Rai Storia domani alle 21:15. Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. In collegamento con Emanuele Caruso, regista del film E fu sera e fu mattina, che è uscito in sala il 18 gennaio scorso in maniera del tutto indipendente. Emanuele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao, grazie per l'invito. Allora, sta avendo una sua vita, insomma, lo porti in giro per l'Italia. Per chi ci ascolta, intanto diamo delle indicazioni, di cosa si parla? Ma E fu sera e fu mattina è innanzitutto un film indipendente girato con pochissimi soldi, con 70.000 euro, un film girato in 10 settimane nell'estate 2012, la mia opera prima per il cinema. Volevamo, io insieme alla troupe di 30 persone con cui abbiamo girato con questo film, volevamo assolutamente metterci in gioco, provare a raccontare questa storia che parla del tempo, del nostro tempo, di come impieghiamo il nostro tempo, la domanda fondamentale su cui ruota tutto il film, che è ambientato in una piccola comunità delle Langhe piemontesi, quindi un piccolo centro sperduto sopra una collina. Dicevo appunto, la domanda che fa il film è questo: che cosa faresti se sapessi di avere a tua disposizione solamente più 50 giorni? Davvero continueresti a vivere la tua vita come stai vivendo, o forse cambieresti tutto? Ecco, intorno a questa domanda abbiamo costruito questo film, che appunto è stato fatto con pochissimi soldi e tanta passione. Senti, per quanto riguarda l'uscita, ecco, dicevamo del 18 gennaio, e poi come lo avete portato in giro? Purtroppo non siamo, oltre a non essere riusciti a trovare un produttore che credesse in questo film, non abbiamo neanche trovato un distributore, cioè coloro i quali in Italia, i più importanti sono 7-8, hanno il potere di metterti in contemporanea in un buon numero di sale sparse ovviamente sul territorio italiano. A questo punto abbiamo un pochino preso ad esempio una produzione italiana anch'essa del 2005, uscita poi nelle sale nel 2006, che era l'opera prima di Giorgio Diritti, Il vento fa il suo giro. Anche lui, come noi, non trovò un distributore, allora decise, pur di non chiudere l'opera dentro un cassetto, di portare lui il film ai cinema. Quindi noi abbiamo un pochino bypassato i distributori, stiamo portando noi il film al cinema chiamando sala per sala, è una distribuzione porta a porta. Tra l'altro ti dico che noi abbiamo fatto solo un anno il premio Visionari per i film indipendenti e il film che premiammo fu proprio Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti, che è un nostro amico. Senti, volevo chiederti che realtà è uscita fuori in base a questa esigenza di partenza del film che avete costruito? In realtà abbiamo dovuto inventarci tutto, nel senso che io non sono un distributore, nella vita non voglio fare il distributore, quindi poi questo processo qui ce lo stiamo un pochino inventando. Io ti chiedevo proprio del film, il risultato artistico, se vogliamo chiamarlo così. Certo, ma allora dal punto di vista strettamente artistico ti posso dire che quando giri con così pochi soldi diventa tutto un compromesso, ogni giornata di ripresa è molto faticosa, quindi cerchi proprio di arrivare in fondo nel miglior modo possibile. Ti devo dire che noi abbiamo girato in digitale, ovviamente, perché la tecnologia che ha portato il digitale per noi è stata molto utile, come tutte le produzioni italiane e straniere. Per esempio abbiamo girato con una cinepresa che costa 4.000 euro, non abbiamo usato una cinepresa che ne costa 50.000, ma una cinepresa che costa 4.000, abbiamo usato delle ottiche molto belle, ma ottiche fotografiche, quindi che costavano meno, facendo un po', diciamo, appunto cercando questi compromessi di cui ti parlavo prima, credo che sia venuto fuori, poi è inutile, sono sicuramente di parte, però penso sia venuto fuori un piccolo prodotto, come dico spesso, un piccolo film che regge il grande schermo, che può stare sul grande schermo e poi con i suoi limiti, perché sicuramente un prodotto che ha comunque dei limiti, un film fatto con 70.000 euro da un regista comunque alla sua prima esperienza è indubbiamente un film che ha i suoi limiti, ma che prova con onestà, credo, a dire la sua e a raccontare una storia molto simile per certi versi al vento fa il suo giro, è un pochino diversa forse da quelle che siamo abituati a vedere, no? Sì. Oggi. Ecco, è proprio in riferimento al ritratto, insomma, dicevi di voler parlare dei nostri giorni, del nostro tempo, che ritratto esce fuori? Ma io ho voluto assolutamente ambientare questo film nella provincia italiana, quindi lontano dai grandi centri abitati. In questo caso abbiamo ambientato il film in un piccolissimo paesino di 2000 anime, quindi ho voluto raccontare un paesino che secondo me però è il paesino d'Italia, al di là del fatto che sia ambientato in Piemonte, però è simile questo paesino a tutti i paesini che sono sparsi per lo stivale italiano, e ho provato a vedere la vita e l'effetto che questa vita potrebbe avere se davvero ci dicessero che domani ci rimangono solo più 50 giorni di vita, vista però con gli occhi appunto di quel tipo di persona, che poi sono anche le persone più probabilmente più vicine a me dal punto di vista del macellaio, dell'edicolante, del ragazzo di campagna, del coltivatore, della maestra elementare, del parroco di una piccola chiesa, quindi da figure che io ritengo più simili e più vicine a tutti noi, perché raccontare questa storia non so dal punto di vista del presidente degli Stati Uniti o comunque da figure che abbiamo già visto e rivisto in mille e mille occasioni, mi sembrava di non aggiungere nulla di nuovo. Ecco, forse lo sguardo che ho voluto dare, che ho provato, diciamo, a dare è stato questo. Emanuele, ci dai dei riferimenti internet per saperne di più? Assolutamente sì, abbiamo sia la pagina Facebook, che si chiama esattamente come il film, Fustere Fumattina, oppure il sito internet, che è di nuovo uguale al titolo, cioè www.efusserefumattina.it. Lì aggiorniamo con tutte le date, tutti i cinema che riusciamo a prendere. Siamo usciti prevalentemente in Piemonte, adesso arriviamo finalmente anche a Roma, che per noi è un bel test, e a Milano, con un discreto bagaglio di biglietti che non pensavamo di riuscire a vendere, in tutta onestà. Bene, Emanuele, io ti abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille, ti abbraccio io, gentilissimi. Ciao ciao. Emanuele Caruso, regista del film E fu sera e fu mattina, in distribuzione indipendente già dal 18 gennaio scorso. Bene, dalle Langhe ci spostiamo a Torino per parlare della 29esima edizione del Torino Gay and Lesbian Film Festival con il direttore Giovanni Minerva, dal 30 aprile al 6 maggio. Giovanni, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi, grazie. Allora, grossi numeri, siamo alla 29esima edizione. Che storia è questa del Torino Gay and Lesbian Film Festival? Allora, grossi numeri in che senso? Che ci sono tanti film, che ci sono troppi? No, una certa anzianità del festival, che ben venga, insomma, una lunga esperienza. Sì, tra l'altro tutta... l'ho attraversata tutta, diciamo così. Senti, allora, diciamo, raccontiamola... L'ho attraversata, per non dire l'ho fatta tutta io, sennò... sembra veramente che io abbia 100 anni, certo. Ma no, ne ho un po' di meno. Senti, come si caratterizza questa edizione? Guarda, i temi principali sono i giovani. Sì. Sono i giovani, quindi le nuove generazioni, quindi quelle che sono le, come dire, le ricerche delle nuove generazioni, le ricerche di opportunità, le ricerche di diritti, piuttosto che le storie d'amore delle nuove generazioni. Quindi i film, cioè una maggior parte sono in quella direzione lì. Mm-hmm. E compresa anche la sezione omogenitorialità, che parla dei nuovi genitori, delle nuove famiglie, e quindi delle famiglie che hanno figli gay, piuttosto che dei gay che hanno dei figli naturali dalle nozze precedenti, piuttosto che con le nuove tecnologie, diciamo. Quindi il punto cardine sono i giovani. Mm-hmm. D'altra parte noi siamo diventiamo più vecchi, ma i giovani ce ne sono sempre di più. Sì, sì. Senti Giovanni, in Italia persiste una certa violenza omofoba e a livello internazionale che succede invece? A livello internazionale succede spesso e volentieri, succedono brutte cose, tipo quello che succede da un po' di tempo a questa parte, già da qualche anno, ma in tempi ancora di più, in Uganda e zone limitrofe, e così in Russia. Non a caso quest'anno noi abbiamo un focus dedicato alla Russia. Sì. Dedicato alla Russia, no, non che ci siano tanti più matematica che arrivino dalla Russia, ma delle testimonianze, c'è un bellissimo documentario appena girato da un regista americano di origine russa, che ha fatto questo bel documentario di testimonianze sui giovani in Russia, due o tre corti, è un bellissimo film per un omaggio a un grande regista russo, Sergei Parajanov, e questo ci sembrava opportuno ricordare uno dei primi tartassati dalle leggi, dall'omofobia russa. Ecco Giovanni, ci dicevi di questo focus sulla Russia, ci sono altre suddivisioni all'interno del festival? Sì, c'è un focus appunto sull'omogenitorialità, c'è un focus su quello che succede in Italia con prodotti, cortometraggi e documentari italiani, anche quello cioè, sembrava opportuno far conoscere soprattutto quello che succede in Italia cinematograficamente, perché succede sempre poco, e volevamo sottolinearlo questo. Poi c'è un bel omaggio a un regista sudcoreano che ci ha portato anche il suo ultimo film, che era Berlino, Night Flight, che racconta quello che succede se vogliamo, in tutte le parti del mondo per quanto riguarda il bullismo, un bellissimo film. Poi c'è la solita sezione che parla delle donne, quindi qual è la realtà in giro per il mondo sulle donne lesbiche, a parte i tre concorsi documentari, lungometraggi e cortometraggi, circa 140 film sparsi nelle varie sezioni, con tutti gli argomenti possibili e immaginabili, quindi uno può scegliere indirizzarsi da una sala all'altra nelle tre sale del cinema massimo. Sì. Ci dai riferimenti internet per la programmazione? Facilissimo, www.tglff.it. Benissimo. Gay and Lesbian Film Festival.it. Giovanni, t'abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi e arrivederci al festival. Ciao Giovanni. Ciao, ciao. Giovanni Minerba, direttore della 29esima edizione del Torino Gay and Lesbian Film Festival, dal 30 aprile al 6 maggio. E ritroviamo a poca distanza di tempo Davide Ferrario. Ben ritrovato Davide. Grazie, ben ritrovati a voi. Allora, ci eravamo sentiti per l'uscita in sala della Luna su Torino, questa volta per parlare di un progetto di film. Davide, di cosa si tratta? Beh, ci sono dei film che hanno una loro strada produttiva più o meno faticosa, ma che in qualche maniera stanno dentro uno schema. Invece, se uno come me si mette in testa di girare un film a partire da un balletto, in questo caso una coreografia di Matteo Levaggi, che è un bravissimo coreografo, che sta tra Torino e Los Angeles e che si chiama Sex con 3X, è difficile trovare i finanziamenti, perché non corrisponde a nulla che possa stare sul mercato in un qualche posto specificato. Non è nemmeno un documentario, è un'idea di cinema, e quindi niente, resta la voglia di fare una cosa che secondo me è artisticamente affascinante, ma che non ha uno schema produttivo distributivo tradizionale. Mm-hmm. Ed eccoci qua. Come parte quest'idea? Perché fare cinema di un balletto? Ma credo che capiti spesso ai registi di vedere o leggere cose, ascoltarle, e la maniera di manifestare il loro apprezzamento, il fatto che gli piace, di dire facciamone un film, cioè viene quasi voglia di impossessarsi della cosa originale e trasformarla in linguaggio visivo, ed è un po' quello che è successo a me quando ho visto questa coreografia. Io sono un appassionato di balletto in senso stretto, però è pur vero che Tutta colpa di Giuda, il film di 4-5 anni fa girato in carcere, era una specie di musical, quindi sì. Una fascinazione per l'incrocio tra musica e immagine ce l'ho sempre avuta. E da lì non è che ci pensi tanto, no? Dici lo voglio fare, e sviluppando un po' di più l'idea, al di là della semplice documentazione del balletto, per me è anche una maniera di ragionare sul corpo del ballerino e sul corpo in generale, che è un tema che invece a me è molto caro. Penso a quel film che fece molto scalpore tanti anni fa, Guardami, che era sulla pornografia e sul lavoro dei pornoattori. Sono molto affascinato dal modo in cui i ballerini trasformano il loro essere delle persone quotidiane, normali, come tutti, in un corpo così espressivo tramite la danza e la tecnica della danza. Ecco, il film vuole essere qualcosa anche su questo, non sul sesso in quanto tale. Mm-hmm. Ecco, che tematica aveva lo spettacolo? Ma il lavoro di Matteo era impostato appunto con questo titolo provocatorio, le 3X di Sex indicavano un'ipertrofia, dice lui stesso, cioè un senso di esagerazione che c'è nell'uso del sesso, nella cultura mediatica che c'è in giro, ma anche nell'esagerazione che c'è nel chiedere ai ballerini di usare il loro corpo in maniera quasi acrobatica. E quindi l'investigazione sua dal punto di vista del balletto era ragionare su una gestualità che è chiaramente di origine erotica e sessuale, per provare a portare al limite, all'eccesso questo. Attenzione, questo non significa che il balletto fosse una cosa osea, era audace, pieno di energia, ma non c'è niente di provocatorio. C'è un lavoro molto intelligente su una gestualità che arriva dall'intimità e che invece si trasforma in danza e movimenti coreografici. Senti, ci dai le indicazioni per contribuire alla realizzazione di questo progetto? Sì, la parte infatti che non abbiamo ancora detto è questo, riallacciandomi a quello che dicevo all'inizio, essendo che non è un film che abbia un mercato stretto e non è che un film che abbia una fonte di finanziamento chiara, un film tradizionale, perché la RAI ahimè non è certamente il tipo di televisione pubblica che si mette a produrre un film tanto con bollette che si chiama Sex, siamo risorsi, come si dice in italiano? Abbiamo fatto ricorso anche al crowdfunding, sì. Ed è quello di cui volevo parlare. C'è un portale che è iniziato da poco ed è dedicato tutto a progetti culturali, non è tipo produzioni dal basso, che è più generico, è dedicato in questo caso alla produzione di un film, ma ci sono anche idee riguardanti spettacoli teatrali o restauri di opere d'arte. Si chiama Innamorati della Cultura ed è un indirizzo a cui dovete rivolgervi, innamoratidellacultura.it. Nella pagina di apertura trovate anche la scheda di Sex e niente, il crowdfunding servirà a cercare di aiutare, non esclusivamente, ma a cercare di aiutare la realizzazione di questo film. Siamo circa a metà della raccolta, che finora sta andando bene, sto cercando di raccogliere 15.000 euro e a metà della raccolta siamo giusto a 7.500, quindi direi che siamo assolutamente in linea. Innamoratidellacultura.it, poi trovate anche una presentazione sotto forma di filmato del progetto, in quanto tale ci sono immagini del balletto e dichiarazioni mie. Bene, a questo punto Davide, un in bocca al lupo, un abbraccio e ci sentiamo per le prossime novità. Speriamo magari di sentirci a film girato. Certo. Su quello. Un abbraccio, a presto. Grazie, ciao. Ciao Davide. Davide Ferrario sul progetto di film Sex. Bene, siamo riusciti a contattare Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso per parlare del primo compleanno appunto di DDB e anche per le novità di questo mese di aprile. Paco, ben ritrovato. Grazie dell'invito come sempre. Dici un po' allora. Niente, sì, come accennavi anche tu prima, Distribuzioni dal Basso compie il suo primo anno e quindi anche tempo un attimo di ragionare non solo su come è andato questo anno, ma anche di portare tutta una serie di migliorie. Il sito infatti, se andate a fare un giro su distribuzionedalbasso.com, è stato non solo completamente rinnovato nella sua veste grafica, ma anche e soprattutto nelle funzionalità del sito. Tra queste la più importante, perché adesso stiamo cercando di sviluppare anche questo filone, è tutto un meccanismo già integrato nel sito per poter non solo richiedere come era prima il DVD o il file del film selezionato, ma anche poter organizzare una proiezione pubblica nella città dove ti trovi, nel circolo che gestisci, eccetera. Quindi è la funzionalità sicuramente più importante, proprio questa che è stata inserita direttamente nel sito. E come ogni mese abbiamo anche presentato dei nuovi titoli, insomma delle prime visioni di Distribuzioni dal Basso, e tra queste una di quelle che abbiamo appunto presentato è Zero Per, che è un documentario sul gioco d'azzardo in Italia, quindi un tema sicuramente all'ordine del giorno, anche come ben potete immaginare. E un altro invece che si chiama L'insostenibile leggerezza dell'essere statua, che invece tocca un po' tutto quel filone di legato al teatro di strada e agli artisti di strada. Oltre a questo c'è anche ancora, come da qualche settimana, disponibile anche Grill Live, che è una diretta nostra produzione e che di conseguenza abbiamo inserito nel portale. Tra l'altro ne avevamo parlato proprio con te in più di un'occasione. Senti, a questo punto poi ti chiederò di girarmi i contatti di questi due nuovi lavori. Volentieri. per chi ci ascolta, diciamo un po' come brevemente come è nata Distribuzioni dal basso, quali sono le sue caratteristiche di base. Sì, esatto, Distribuzioni dal basso nasce da una riflessione di lungo periodo sui nuovi meccanismi di produzione cinematografica e soprattutto sui nuovi esperimenti sia produttivi legati al crowdfunding ma anche autodistributivi con tante piccole e micro esperienze che costellano il territorio nazionale. L'obiettivo nostro è quello di cercare di creare una comunità, in qualche maniera una comunità di autori, registi, indipendenti, freelance e spesso e volentieri anche emergenti, che possono in qualche maniera unire le forze e fare in modo che tanti lavori interessanti, tanti progetti interessanti possono circolare il più possibile. Sì. Il meccanismo di scambio economico è traslato direttamente dal crowdfunding, quindi non c'è una vendita vera e propria, ma c'è un meccanismo di donazione specificato nei dettagli sul sito, scheda per scheda, e in qualche maniera la sfida è quella. Il fatto che siamo riusciti ad arrivare al traguardo del primo anno ci dà sicuramente nuova energia e ci fa riflettere sul fatto che forse questi passaggi sono stati non solo necessari ma anche in qualche maniera propositivi per un discorso anche di comunità di videomaker che si sta cercando di fare, legandolo anche alle licenze Creative Commons, che è tutto un filone di ragionamento molto importante, per cui insomma le sfide che ci aspettano sicuramente sono ancora tante, ma siamo decisamente fiduciosi sul da farsi. Bene. Paco, in chiusura ci dai i riferimenti? Sì, allora per il portale www.distribuzionealbasso.com lì trovate non solo tutti i titoli ma anche la possibilità che attualmente sono 30 documentari, 2 progetti musicali e un progetto di web series. Ma potete appunto trovare anche tutti i contatti per proporre un lavoro, un progetto filmico, cinematografico, documentaristico o per qualsiasi tipo di richiesta o domanda direttamente dal sito. Bene, un abbraccio e a presto, Paco. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Andrea Paco Mariani di Distribuzioni dal Basso sul primo compleanno e anche sulle novità di aprile. Allora, non era previsto perché dovevamo sentire Sabrina Baracetti, direttrice della 16ª edizione del Far East Film Festival a Udine dal 25 aprile al 3 maggio, ma così non è, e quindi l'avevamo in programma da un paio di settimane, stavamo slittando e con Fabio Zanello. Intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Fabio. Grazie a voi, un caro saluto a tutti gli amici e grazie dell'ospitalità. Federico, colgo anche l'occasione per salutare l'amica Sabrina Baracetti che ho avuto l'occasione di frequentare il Far East per tanti anni, un festival magnifico, secondo me è importantissimo. Sì, tra l'altro ecco, ne parlavamo con un autore qualche settimana fa e diceva dell'importanza anche a livello distributivo di festival come il Biografilm e il Far East, insomma, che si sono impegnati anche dal punto di vista della circuitazione dei lavori. Assolutamente, anche per voi pensate alla Tucker Film che oltretutto ha fatto questi accordi con Rai 4, dove noi abbiamo la possibilità di vedere dei film dell'Estremo Oriente anche in televisione, perché non c'è soltanto il circuito del home video, ma del resto io sono sempre dell'idea che i film debbano essere fatti vedere anche al di fuori dei festival. Certo. Credo che appunto, come dici tu, sia uno dei pochi casi in Italia di festival che si occupa anche della distribuzione dei film che vengono passati. Sì, sì, sì. Con te invece parliamo di un paio di cose, perché tu hai una trasmissione che lavori ad una trasmissione di cinema radiofonica, per cui ti sento particolarmente vicino, e poi sei il curatore di una collana cinematografico letteraria, diciamo così. Sì. Allora partiamo un po' forse prima dalla collana. Sì, guarda, dunque questa collana si chiama Collana Cinema Split Screen e fa parte della casa editrice Il Foglio Letterario di Piombino, dell'editore Gordiano Lupi. è una casa editrice che pubblica titoli di vario genere, perché ci sono anche la narrativa e la saggistica. Una decina d'anni fa è nata la mia collana Cinema, che adesso ha raggiunto la ragguardevole cifra di 39 volumi. Gli ultimi nati sono delle monografie dedicate a Tony Scott, Gualtiero Jacopetti e Coreda. Tra l'altro, adesso, a proposito di cinema dell'Estremo Oriente, appunto Coreda è sulla bocca di tutti, perché in sala c'è Father and Son. E col passare del tempo questa collana è stata molto apprezzata. Ultimamente abbiamo avuto anche delle interviste su riviste come Duellanti, abbiamo avuto delle recensioni molto positive su riviste come la Rivista del Cinematografo. E, posso dire che quello che mi interessa, insomma, la filosofia di fondo che fa da volano a questa collana è quella di affrontare argomenti non soltanto snobbati in passato dalla critica, ma anche affrontare personaggi complessi o addirittura registi su cui non esiste nulla sul mercato italiano. Ecco, questa è la filosofia di fondo. Sì. Ecco, ci dai dei riferimenti internet per informazioni più dettagliate? Sì, guardate, c'è un sito che è www.ilfoglioletterario.it, dove è consultabile appunto il catalogo della casa editrice. Bene. Per gli amici romani posso dirvi che i nostri libri sono reperibili presso la libreria Altro Quando, visto che ha gran parte di questi titoli. E anticipo anche agli amici che ci stanno ascoltando che il 28 maggio sarà presentato presso la Bibliomediateca Mario Gromo di Torino, che è quella del Museo del Cinema, la monografia Il Cinema di Tony Scott, curata da Mario Gerosa. Bene, arriviamo a questo punto alla tua trasmissione di cinema, raccontaci un po' tutto. Ma dunque, questa trasmissione di cinema si chiama Cine Carbone, che prende il nome dalla mia partner Valentina Carbone. È una trasmissione che passa tutti i martedì sera alle 20:30 su www.border-radio.it, trasmessa in streaming, e quindi se andate sul sito potete anche recuperare le puntate precedenti. È una trasmissione dove facciamo interviste, dove recensiamo i film, c'è anche una giusta dose di ironia, perché non vogliamo mai essere troppo accademici. Insomma, si parla di cinema sia in maniera seria che in maniera anche un po' più rilassata, ecco. Inizialmente questa trasmissione era condotta solo da Valentina e da quest'anno la affianco anche io, ecco. Bene, e la durata di un'ora? Un'ora, sì, dura sempre un'ora. Adesso vi anticipo che nelle prossime puntate avremo come ospiti Malisa Longo, che è l'attrice di culto del cinema di genere degli anni 70, e poi avremo anche Paolo Campana, che ha fatto un bellissimo cortometraggio intitolato Vino in Mania, che descrive la passione per i dischi di vinile, che fortunatamente è tornata di grande tendenza negli ultimi tempi dopo l'avvento del digitale. Bene. Fabio, a questo punto i riferimenti ce li hai dati, un in bocca al lupo per tutto, magari ci risentiremo per tutte e due le avventure che stai portando avanti. Assolutamente, io vi tengo sempre aggiornati sulle mie mosse, quindi questo è sicuro, è stato un piacere. Allora, a presto Fabio, un abbraccio. Grazie ancora, buona giornata. Ciao ciao. Ed è tutto con Visionari, l'appuntamento con il cinema su Radio Onda Rossa dalle 14 alle 15. Riferimenti, la scaletta la trovate sia sul sito della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, dove trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 24 aprile, i nostri indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il cinema sul piccolo schermo, e poi il link per riascoltare la puntata precedente, ma anche l'archivio del 2014 e del 2013. Trovate le informazioni anche sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.